perfetto giorno di Simone Spezia. Il lavoro non è finito, dice il ministro dell'interno belga. Il super ricercato sarà ancora in fuga per perquisizioni e 16 arresti a Bruxelles. Si allarga la coalizione anti-ISIS. Cameron offre ai francesi una base a Cipro e si prepara a chiedere il via libera per i bombardamenti. Scatta oggi il piano per la sicurezza del Giubileo. Più uomini e misure più stringenti. Alfano dice in Europa scarso scambio di informazioni. Roma intanto si risveglia con il quadrante nord in forte difficoltà. Sciopero a sorpresa dei dipendenti di Roma TPL e 42 linee di autobus cancellate. Per le ferrovie parte la procedura di quotazione sul mercato il 40% e la rete resterà pubblica, azionariato diffuso e partecipazione dei dipendenti. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti effettogiorno@radio24.it per scriverci e su WhatsApp il 349-238-6666. In apertura ancora la caccia all'uomo che ieri ha costretto i cittadini di Bruxelles, almeno parzialmente, in una sorta di stato di assedio. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Il lavoro non è ancora finito, ha detto stamattina il ministro dell'interno belga Jean Bon, riferendosi appunto alla maxi operazione di ieri con il centro di Bruxelles blindato, i quartieri come Molenbeek e Charleroi setacciati, sono state perquisite 19 abitazioni, fermate 16 persone, ma appunto Salah Abdeslam è ancora un fantasma. Così ha detto anche il procuratore Eric van der Sipt. Salah Abdeslam is not among the persons arrested. Non è fra le persone fermate, 16 persone, lo ricordiamo, ha detto il procuratore, e questa mattina è stata ritrovata la BMW sospetta nei dintorni di Liegi. Abdeslam era stato dato in fuga su una BMW verso la Germania. Non è chiaro se davvero quest'auto sia stata usata dal ricercato, e ieri alla TV ha parlato anche il fratello di Salah, Mohamed. C'est ma conviction. Salah è quelqu'un de Sono convinto, ha detto Mohamed, che Salah abbia avuto un ripensamento, è una persona intelligente, avrà fatto un passo indietro. Infine ha chiesto ancora una volta al fratello di consegnarsi, perché ha detto la famiglia preferisce vederlo in prigione piuttosto che al cimitero. Per ora è tutto. E grazie alla nostra Valentina Furlanetto per questi aggiornamenti. Nel frattempo andiamo su come ci si sta muovendo a livello internazionale. Oggi il presidente francese François Hollande volerà negli Stati Uniti, questa mattina ha incontrato il premier britannico Cameron, il quale a sua volta oggi parlerà alla Camera dei Comuni. E poi che cosa succederà? Succederà che giovedì il presidente del Consiglio Matteo Renzi, una notizia di pochi istanti fa, sarà all'Eliseo appunto e incontrerà Hollande. Su questo fronte, sul fronte internazionale, torneremo tra poco, ma intanto vogliamo venire all'Italia. Questa mattina è stato presentato il piano per il Giubileo, il piano appunto per la sicurezza, anzi in realtà è più propriamente partito e si è parlato di Giubileo questa mattina in una conferenza stampa, dunque facciamo il punto. Scatta ufficialmente il piano Giubileo. Da oggi infatti operativa l'ordinanza che rafforza ulteriormente i controlli in città. A due settimane dall'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro partono dunque misure di sicurezza più stringenti e di immediata percezione, così come ha spiegato il prefetto di Roma Gabrielli, anche se non cambierà nulla per la libertà e i diritti dei cittadini, perché sono tutte disposizioni a normativa vigente. Dal punto di vista quantitativo ci saranno 2.000 uomini a presidiare non solo gli oltre 1.000 obiettivi sensibili e gli eventi considerati a rischio, ma anche autobus e metropolitane, controlli serratissimi anche nelle piazze della Movida e nei luoghi di ritrovo. Ma no alla militarizzazione di Roma, spiega ancora Gabrielli, perché sarebbe una sconfitta. La battaglia contro il terrorismo non si vince o si perde per la presenza in strada di agenti in divisa che presidiano, ma per il sistema di sicurezza nel suo complesso, che vede l'attività non visibile come la principale. Intanto dal Vaticano il portavoce padre Federico Lombardi dice di nutrire la massima fiducia nelle istituzioni italiane. Ci affidiamo alla loro responsabilità per garantire la sicurezza, dice Lombardi, specificando che il Vaticano non ha chiesto più sicurezza perché ciò dipende dalla valutazione delle autorità italiane. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Come si diceva, questa coalizione internazionale che progressivamente sembra formarsi, e il presidente del Consiglio Renzi, che giovedì sarà all'Eliseo a parlare con Hollande, su quale possa essere il ruolo italiano, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi è intervenuto questa mattina a Mix 24. Dice: fa bene Renzi, bombardare non serve. O meglio, Renzi ha ragione a non bombardare. Sentiamo. Presidente Prodi, ma in Siria dobbiamo bombardare anche noi o no, se si fa la coalizione? Guardi la Germania. Cioè? Cioè, me l'ha chiesto lei, guardi la Germania. Voglio dire, ma che andiamo a bombardare? Ah, niente. No. Non andiamo. Il governo, quindi la posizione del governo italiano è giusta? Io sì. È d'accordo? Sì. Sì. Senta. Sì. Così dunque Prodi a Mix 24. Come si diceva, si forma nel frattempo questa coalizione internazionale, oggi l'incontro tra Cameron e Hollande, incontro nel quale Cameron ha promesso ai francesi la base di Cipro per andare a bombardare. Ci colleghiamo con il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano. Leonardo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Sì, buongiorno. Oggi, come dicevi, il premier inglese ha offerto alla Gran Bretagna la base di Cipro, ma è soltanto l'inizio di un rinnovato sforzo britannico sullo scenario iracheno e siriano, perché Cameron ha confermato che riporterà ai comuni al più presto, forse addirittura alla fine di questa settimana o la prossima, la questione del bombardamento in Siria. Ricordiamo che Westminster aveva bocciato la partecipazione militare inglese in Siria contro l'ISIS, autorizzandola invece soltanto in Iraq. Adesso ovviamente lo scenario è cambiato e questa opposizione, che era trasversale sia tra deputati conservatori che laburisti, dovrebbe cadere. Comunque Cameron è apparso molto fiducioso sulla possibilità di far passare la sua proposta ai comuni nel porgere di pochi giorni. Tra l'altro è previsto anche un aumento delle risorse per la difesa, Leonardo, no? Esattamente, è stato aumentato il budget della difesa nell'ambito della spending review quinquennale, è stato aumentato di 12 miliardi, quindi un aumento dello 0,5% del PIL all'anno, con la creazione in particolare di due brigate di 5.000 uomini per interventi di rapido dispiegamento, sia su scacchieri esteri sia sul territorio nazionale. Questo perché? Perché come dire, la parola d'ordine adesso è flessibilità per poter intervenire sia sullo scenario all'estero sia sul territorio nazionale in caso di episodi di terrorismo come abbiamo visto in Francia. E grazie a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, e per fare proprio un punto su questa coalizione, se così possiamo definirla, nascente, che a questo punto terrebbe dentro quantomeno la Russia, la Francia e la Gran Bretagna, siamo in linea con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi. Qual è la tua valutazione? Che cosa ti sembra che si stia generando in queste ore dal punto di vista militare? Beh, innanzitutto si sono già generati due fatti, insomma, due considerazioni. Il primo è che l'Europa non è unita e si capisce molto bene, no? E l'Europa non è unita perché non si è mai data una politica estera di difesa comune. Che la stessa NATO è molto, come dire, ai margini di questa vicenda, la NATO che era intervenuta in Libia, che era intervenuta in Afghanistan e adesso non dice una parola, perché sono gli Stati Uniti che decideranno eventualmente cosa farà la NATO, e soprattutto perché si vuole tenere aperta questa coalizione a paesi che non sono affatto nell'Alleanza Atlantica, e prima di tutto la Russia di Putin e l'Iran, che sono due paesi fondamentali. Tanto è vero che Hollande, dopo che andrà da Obama domani, poi il 26 andrà da Putin, e oggi a Teheran c'è un incontro fondamentale perché Putin incontrerà la guida suprema Khamenei, un evento che non è che accada molto frequentemente. Questo che cosa ci dice? Ci dice che siamo un po', come dire, non si direi alla stretta finale, ma comunque si cercano di mettere le basi per capire chi metterà poi delle truppe di terra sul terreno, perché oggi a combattere questo califfato re sono i pasdarani iraniani, gli Hezbollah libanesi, i curdi, e un esercito di Bashar Assad che è sempre di più, come dire, monopolizzato dagli stessi Pasdaran e dagli Hezbollah. Quindi, Alberto, lo snodo dunque è proprio questo, cioè il non lasciare alla fine che questa guerra, che effettivamente c'è, sia combattuta da altri, e questa coalizione si limiti a bombardamenti aerei, in sostanza. Infatti, Hollande sta cercando di capire come e con chi mettere le truppe sul terreno, tenendo presente che i russi, a quanto pare, hanno già dispiegato degli uomini dei corpi speciali che stanno assistendo l'esercito di Bashar Assad e che si sono già scontrati con la Turchia, paese membro della NATO, per la questione dei bombardamenti dei turcomanni. Quindi si capisce molto bene, insomma, quali delicati rapporti ed equilibri ci siano anche per andare a colpire su terra e soprattutto per andare a colpire sul terreno il califfato. Si dovrebbero unire gli olandesi, i francesi, si dovrebbero unire i russi, si dovrebbero unire i pasdaran iraniani e addirittura delle forze speciali americane che sono già in parte dispiegate nella provincia di Raqqa in Siria. Insomma, si capisce molto bene che siamo di fronte, come dire, a alleati molto, molto eterogenei. Quindi serve una diplomazia molto attenta per capire appunto che cosa fare. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri anche per questi chiarimenti e per questa analisi. E per chiudere almeno per il momento il capitolo che riguarda il terrorismo, c'è una notizia appena battuta dalle agenzie: sono state fermate altre 5 persone oltre alle 16 delle perquisizioni di ieri notte, portando il totale a 21, e parliamo ovviamente delle operazioni di Bruxelles. A Bruxelles torneremo tra un attimo nella seconda parte della trasmissione, tra l'altro collegandoci col corrispondente del Sole 24 Ore dalla capitale belga, per avere anche un po' di idea del clima che si respira in città in queste ore. Intanto cambiamo argomento, passiamo alle altre notizie, iniziando dalla cessione del 40% delle Ferrovie dello Stato, che in via di definizione. L'annuncio è arrivato oggi dal ministro Del Rio. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Diciamo allora, Simone, che è partito ufficialmente il percorso di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato. Il Consiglio dei Ministri di questa mattina ha avviato infatti l'iter che porterà il 40% dell'azienda sul mercato. Una quota, spiegano da Palazzo Chigi, limite, potenzialmente alienabile, a disposizione di un azionariato diffuso e di investitori istituzionali, ferma restando la piena maggioranza dell'azionista Stato. Tanti evidentemente i paletti all'operazione imposti dall'esecutivo e ricordati dal ministro dei Trasporti Del Rio: proprietà della rete che resta pubblica, la garanzia dell'indipendenza del gestore e degli obblighi di servizio pubblico e di pubblica utilità, anche se l'esame delle modalità, se riguarderà solo Ferrovie dello Stato, anche in parte Rete Ferroviaria Italiana, ha chiarito lo stesso Del Rio, verrà fatto nelle prossime settimane. Il Consiglio dei Ministri, Simone, ha poi approvato il decreto legislativo che dà attuazione all'articolo 21 della riforma della pubblica amministrazione. Con questo provvedimento, ha sottolineato il ministro Boschi, andiamo ad abrogare 45 decreti e a stabilire 12-15 modifiche da apportare. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E a proposito di borsa, è notizia di poco fa che Ferrari si appresta a sbarcare anche a Piazza Affari dopo l'esordio a Wall Street lo scorso ottobre. La Rossa di Maranello ha depositato domanda per la quotazione sul mercato azionario in connessione con la prevista separazione da Fiat Chrysler, lo si legge in una nota. Ieri il governo intanto ha dato il via libera al decreto per salvare 4 banche in difficoltà. Sentiamo. È una giornata frenetica di riunioni con la rete, i dipendenti e i capi area, di lettere ai colleghi per dare fiducia sul futuro della nuova banca, ma soprattutto per essere pronti a rispondere ai clienti e far capire che rispetto a ieri per correntisti e obbligazionisti ordinari non è cambiato nulla. Banca Marche, Popolare Etruria e Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e Cari Ferrara si presentano oggi agli sportelli con una nuova veste. Sono good bank, uscite dall'amministrazione straordinaria senza crediti deteriorati, ma con la nuova liquidità arrivata dal fondo creato ad hoc dal governo con il benestare di Bruxelles. Nel fondo ci sono 3,6 miliardi anticipati da Intesa San Paolo, Unicredit e UBI, che saranno rimborsate quando sia gli asset delle banche buone sia i prestiti rischiosi, separati e finiti nella bad bank, saranno ceduti, perché questo è l'obiettivo. Sforzi verranno chiesti anche al resto del sistema bancario, non BCC. Nominati nuovi amministratori delegati sono l'ex manager Goffi per Nuova Banca Marche, Bertola per Etruria, Achieti e Ferrara, i due commissari uscenti Immordino e Capitanio. Presidente di tutte e quattro le banche è Nicastro, ex Unicredit. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, c'è il traffico e poi dopo ci ritroviamo, torniamo a parlare di Bruxelles, sentiremo qual è il clima in città, tra l'altro ci sono aggiornamenti che vi abbiamo dato pochi istanti fa di nuovi arresti e poi parleremo di quello che sta succedendo questa mattina a Roma, che non riguarda il Giubileo, non riguarda la sicurezza, ma riguarda le difficoltà di trasporto dei romani, perché una protesta improvvisa da parte di alcuni lavoratori dell'azienda Roma TPL ha messo in fortissima difficoltà ai quadranti ovest e nord della città. Tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli sul terrorismo innanzitutto, ci sono nuovi arresti a Bruxelles nella notte, altre 5 persone in manette, il totale sale a 21, il super ricercato Salah è ancora in fuga. E si allarga la coalizione anti-ISIS, Cameron offre ai francesi una base a Cipro e si prepara a chiedere il via libera per i bombardamenti, Renzi sarà giovedì a Parigi. Scatta oggi il piano per la sicurezza del Giubileo, più uomini e misure più stringenti. È ufficiale, è arrivato pochi istanti fa, le due aziende farmaceutiche Pfizer e Allergan si fonderanno, nasce un colosso del valore di 160 miliardi di dollari, la maggiore azienda farmaceutica del pianeta. Saluto Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, com'è stata innanzitutto, e poi verremo alle ultime, e com'è la situazione oggi, in attesa tra l'altro di un Eurogruppo che si apre alle 3 del pomeriggio, gli appuntamenti europei sono tra i pochi rimasti attivi, per così dire, in queste ore nelle quali c'è stata una discreta tensione, e vorrei farti raccontare come hai vissuto da giornalista e da cittadino di Bruxelles la giornata di ieri, perché dalle informazioni che sono circolate si parlava di una sorta di stato di assedio. Come l'hai vissuto e com'era effettivamente Bruxelles, Beda? Ma io in realtà sabato mattina sono andato in giro come al solito, non ho cambiato i miei programmi né le mie abitudini. Ho l'impressione che il vero cambio di abitudini da parte dei brussellesi in generale sia stato quello di evitare i luoghi di assembramento. E in parte evitarlo è stato relativamente facile perché molte sale di concerto erano state chiuse, i teatri erano state chiuse, a Bruxelles le partite erano state cancellate, le partite di calcio, e quindi inevitabilmente le possibilità di partecipare a delle situazioni dove molte persone sono riunite sotto uno stesso tetto erano state annullate. Quindi, a parte questo aspetto, la vita quotidiana di tutti mi sembra sia continuata più o meno come al solito. Sabato sono andato a visitare una mostra e l'esposizione era aperta. I negozi erano praticamente tutti aperti, salvo i centri commerciali che sono stati chiusi per i motivi di cui dicevo prima, erano luoghi di potenziale assembramento e quindi la polizia aveva deciso che bisognava chiuderli. Vi erano, a dire il vero, alcuni negozi piccoli chiusi, ma erano tendenzialmente negozi di abbigliamento e soprattutto la giornata di sabato è stata una giornata particolarmente fredda, aveva anche nevicato la mattina e quindi non posso escludere che la chiusura dei negozi sia stata determinata non solo dalla minaccia terroristica, ma anche dal clima. Da ragioni di convenienza, da semplici ragioni di convenienza dei negozianti. Sì. Beda, dove si sono concentrate le operazioni in queste ore? Allora, le operazioni si sono concentrate fondamentalmente nella parte nord della città e nel centro della città. Il centro di Bruxelles è un centro molto particolare rispetto al centro di altre capitali europee. È un centro che nel corso degli ultimi decenni è stato progressivamente dimesso, è tendenzialmente démodé, poco abitato e lasciato abbastanza degradarsi negli ultimi decenni. Le operazioni si sono svolte vicino alla stazione principale della città, che è la Gare du Midi, quartiere francamente non dei più rassicuranti, soprattutto la sera e la notte. e alcuni quartieri, come dicevo prima, del nord della città, quindi Molenbeek, Jet, Schaarbeek, quartieri che sono relativamente popolari, alcuni dei quali hanno delle zone relativamente malfamate, ma non sono quartieri che hanno sorpreso l'osservatore. Quando abbiamo saputo nel corso delle ultime ore che le perquisizioni si sono svolte in questi quartieri, non credo che un abitante di Bruxelles sia rimasto sorpreso. Ti ringrazio, grazie al nostro Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, per questo racconto della città, come avete sentito, un po' diverso da come in parte vi è stato rappresentato. Valerio Barletta è presidente del 14° municipio di Roma, Roma Montemario. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Non per parlare di giubileo e sicurezza, ma per parlare di quello che è successo stamattina, dove di fatto un pezzo della città si è trovato non propriamente isolato, perché comunque funzionava ancora qualche linea dell'ATAC, e però c'è stato uno sciopero, o meglio un blocco dei mezzi al deposito che ha paralizzato un pezzo della circolazione, Barletta, no? No, diceva bene, purtroppo alcune zone, in particolare della periferia, sono rimaste completamente senza mezzi pubblici, perché in quei territori, penso alle borgate di Palmarola, Ottavia, Selva Candida, abbiamo solo un servizio fornito dalla società Roma TPL e non da ATAC, per cui il problema è stato grande per gli studenti per raggiungere le scuole, per i lavoratori della periferia per raggiungere il centro della città, la metropolitana. Ecco, un problema che capisco, legato alla condizione dei lavoratori della società Roma TPL, che non percepiscono lo stipendio da mesi e ai quali va tutta la solidarietà mia e di chi vive la città e ama il mondo del lavoro, ma che di fatto non può ricadere sulle spalle degli altri cittadini, altrimenti diventa una lotta tra poveri. E oggi, senza preavviso, senza alcuna comunicazione, migliaia di cittadini della periferia di Roma sono rimasti a terra, a piedi, dovendo fare qualche chilometro magari per andare a raggiungere il treno regionale piuttosto che la stessa metropolitana. La situazione è tornata tranquilla adesso, Barletta? Ma c'è stata e è ancora in corso una lunga trattativa nel deposito di Maglianella, in particolare, dal quale tutte le sigle sindacali non hanno permesso l'uscita dei mezzi. Gli autisti sono rimasti lì in assemblea e credo e spero che non tanto e solo per oggi, ma che per le giornate a seguire si trovi una soluzione. Deve intervenire chiaramente il commissario Tronca affinché gli stipendi di lavoratori e lavoratrici siano pagati e torni la normalità. Noi non ci possiamo presentare alle porte del giubileo, ormai alla vigilia del giubileo, con l'incognita di arrivare alla fermata dell'autobus e di non sapere se l'autobus passa oppure no. Perché ci sembra che lo snodo sia esattamente questo, e nel ringraziarla, Valerio Barletta, presidente del municipio 14° Roma Montemario, del motivo per il quale abbiamo voluto mettere l'accento su questa vicenda, insomma, tra poco inizia il giubileo, certo c'è la questione della sicurezza, c'è il piano per la sicurezza, ma come vedete i problemi di Roma sono anche altri. Ci fermiamo, ci troviamo tra un attimo, facciamo il punto come sempre sui mercati e poi andremo a Venezia, dove c'è aperta la camera ardente per Valeria, la ragazza italiana uccisa negli attentati di Parigi, e c'è anche il presidente del Consiglio. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: nuovi arresti a Bruxelles nella notte per il terrorismo, altre 5 persone in manette, il totale sale a 21, ma il super ricercato Salah è ancora in fuga. Pochi istanti fa ha parlato il procuratore di Bruxelles, che dice non c'è nessun legame, come ipotizzato inizialmente, tra una BMW ritrovata da poco e lo stesso Salah. Insomma, non sarebbe scappato con quella macchina come indicato inizialmente. Si allarga nel frattempo la coalizione anti-ISIS, Cameron offre ai francesi una base a Cipro, si prepara a chiedere il via libera per i bombardamenti che a questo punto sembra quasi scontato, Renzi sarà giovedì a Parigi. E scatta oggi il piano per la sicurezza del giubileo, più uomini, misure più stringenti, Alfano dice in Europa c'è uno scarso cambio di informazioni. Le ferrovie, parte la procedura per la quotazione, sul mercato il 40%, la rete resterà pubblica, azionariato diffuso e partecipazione dei dipendenti. La borsa. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, vi ricordo la versione di Effetto Giorno, oggi come tutti i lunedì è un po' più breve perché avremo uno spazio anticipato di America 24 e nell'ultima parte, nell'ultimo quarto d'ora, quando solitamente c'è America 24, c'è il nostro spazio, la nostra rubrica dedicata all'autotrasporto. Quindi andiamo rapidamente innanzitutto a Venezia, dove è aperta la camera ardente di Valeria Solesin, la ragazza morta negli attentati di Parigi e dove è arrivato da poco il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Silvia Menetto, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. In realtà Matteo Renzi non è ancora arrivato alla Camera Ardente, è arrivato all'aeroporto, lo stanno tutti attendendo, c'è il sindaco Luigi Pignano davanti alla porta del comune a Ca' Farsetti, dove è stata allestita appunto la Camera Ardente per Valeria Solesin. Da questa mattina è stato un continuo via vai di personalità e di persone normali, comuni, che hanno voluto salutare questa ragazza. È venuto quasi tutto il Consiglio regionale al completo, sono tutti appunto in attesa del Premier Matteo Renzi. Intanto devo dire che questa mattina la bara di Valeria era completamente coperta ormai di fiori. Ognuno ha voluto lasciare un messaggio, ha voluto lasciare una rosa, c'è anche un pupazzetto, un peluche che è stato lasciato da amici che hanno voluto salutarla così. Oggi pomeriggio è attesa anche la Presidente della Camera Boldrini, domani come sapete ci sono i funerali in forma civile in Piazza San Marco all'aperto, la piazza sarà blindata, ci saranno 4 settori di accesso e quindi solo attraverso il controllo delle forze dell'ordine si potrà entrare in Piazza San Marco e seguire le esequie. Per il momento è tutto. Grazie alla nostra Silvia Menetto che poi seguirà domani anche i funerali. Noi adesso andiamo a sentire, cambiamo decisamente argomento, che cosa succede all'interno del PD. Il tema, ormai lo sapete, è questa ricandidatura o almeno candidatura alle primarie di Antonio Bassolino per la guida della città di Napoli. Si candida per Unire e andare oltre Luigi De Magistris Antonio Bassolino, che pare intenzionato ad andare anche oltre le primarie del PD, la cui data a Napoli è slittata dal 7 febbraio al 20 marzo, mentre a Roma si scrivono nuove regole da votare su proposta della segreteria nelle prossime settimane. Una di queste, che sembra essere una regola anti-Bassolino, ma in realtà varrà per più di qualcuno, sarà l'esclusione dalle possibili candidature alle primarie di chi è già stato sindaco, perché sostiene la vice segretario Serracchiani, quando un'esperienza è chiusa e chiusa, è preferibile fare spazio ad una nuova classe dirigente. La regola non varrà per i sindaci in carica. La partita napoletana non sarà certo facile, De Magistris chiederà una riconferma, il Movimento 5 Stelle non ha ancora scelto ufficialmente il nome, ma si dice manchi poco. Il centrodestra attende il confronto con Berlusconi, mentre nella sfera del centrosinistra si fa avanti anche il nome di Umberto Ranieri. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire il nostro Mario Platero con America 24, come sapete in questi giorni, appunto nella giornata di lunedì, in versione anticipata. Ci ritroviamo subito dopo per i saluti.